Ma non c'era mezzo di dimenticare l'odore nauseante e dolciastro dell'oppio. Quando fu su in camera spalancò la finestra, ma neanche questo servì. L'aria della sera era immobile e l'odore gravava sulla casa, vago ma penetrante. Per tutta la vita Iwan aveva sentito, odiandolo, quell'odore nelle nari. Forse in una vecchia casa cinese i muri interni dei cortili l'avrebbero circoscritto, ma qui, su per quel labirinto di scale e di vasti locali, il vecchio odore dell'oppio si indugiava come un miasma. Era quell'odore l'essenza di tutto ciò che Aiwan odiava, un'insinuante, letargica fragranza che nella sua stessa dolcezza aveva un po' il lezzo della morte. La casa ne era satura, le tende di seta alle pareti ne erano impregnate, così i cuscini rossi delle sedie e dei divani. Aiwan, tirandosi addosso le seriche coperte imbottite quando si coricava alla sera, sentiva nelle nari o immaginava di sentire quel lezzo. Perciò aveva voluto che la sua camera fosse nuda, come la minuscola cella che nell'università ospitava i sogni di Enlan. Ordinò a Peonia di staccare le pesanti tende di damasco che il decoratore francese aveva stabilito, prima ancora che lui nascesse, dovessero ornare le finestre della casa, che da allora erano dappertutto, rimaste intatte al loro posto. Unica eccezione, le due finestre della camera di Aiwan. Senza tende si aprivano alte e larghe e attraverso il loro vano la luce irrompeva come un'ondata sonora. Peonia non finiva di lagnarsi della bruttezza della stanza e non perdeva occasione per cercare di ammorbidirne la cruda luce. Quel giorno Aiwan, rientrando, notò che Peoni aveva ripetuto il tentativo, collocando sulla finestra un vaso azzurro con un ramo fiorito di rosei oleandri, e per un attimo pensò: che cosa mi importa dei fiori? Ora li tolgo. Ma non tradusse in atto il pensiero. La verità era che non voleva offendere Peonia, l'unica creatura della casa con la quale potesse parlare. Finora, tuttavia, non aveva ancora risolto di raccontarle tutto, cioè di confessarle che aveva finalmente aderito alla piccola banda rivoluzionaria, pronto a rinunciare a molte cose, non esclusa quella sua dimora. Un pensiero codesto che gli gonfiava il cuore di orgoglio e nello stesso tempo glielo stringeva, ma era quello l'unico mezzo per salvare la patria. Tagliar via tutti i rami della vecchia, morta vita, la vita del capitalismo. E spesso pensava che anche Aiko era morto, come la nonna, nonostante fosse un giovanotto. Era morto perché non aveva pensieri che per sé e i propri divertimenti, forte del privilegio di essere figlio del presidente di una grande banca moderna. Aiwan ignorava tutto quello che il fratello faceva, ma non abbastanza per non sapere che mai avrebbe somigliato a lui. Si tolse la divisa studentesca, color azzurro scuro, e indossò una lunga veste di seta grigio-verde. Non ignorava infatti che al nonno dispiaceva vederlo nella dimessa uniforme universitaria. «Quando mi ti presenti», gli aveva ordinato, «vieni vestito del tuo abito normale». «Quando avrò rinunciato a tutta questa roba», pensò ora, abbottonando i bottoncini di seta ritorta, «non vestirò che la divisa». Era chiaro infatti che nella vita rivoluzionaria alla quale si sarebbe dedicato, una veste come quella sarebbe stata poco meno che un'assurdità. Arrampicarsi sulle rocce, far lunghe marce per strade di campagna, predicare per le vie al popolo esortandolo alla rivolta contro i ricchi e gli oppressori. Non si poteva mica indossare una veste di seta per tutte quelle cose. D'altronde avrebbe dovuto persino cambiare nome, altrimenti chi avrebbe posto fede a quanto diceva il figlio di un ricco banchiere di Shanghai? Echeggiò la solita tossettina secca, e Peonia fece capolino alla porta. «Il nonno domanda perché ritardi. I tuoi genitori ti ordinano di venir subito», annunciò. «Vengo, vengo». La voce di Peonia mutò, entrò in camera e andò difilato alla finestra. «Hai visto l'oleandro?» domandò con dolcezza. «Sì», disse Aiwan levandosi le scarpe e infilando i piedi in pantofole di velluto nero. Se il nonno lo avesse sentito scendere le scale battendo i tacchi delle pesanti scarpe di cuoio, gli avrebbe ordinato di fare dietro fronte e di andare subito a cambiarsele. «Non sono belli questi oleandri così in piena luce?» domandò Peonia. Egli alzò gli occhi. Per la prima volta in vita sua vide improvvisamente un'altra peonia, diversa dalla fanticella con la quale aveva giocato e bisticciato sin dall'infanzia. Ora aveva davanti a sé, vicino a quei fiori, una fanciulla carina e la guardava con occhi nuovi. Non li ho guardati, disse, e senza aggiungere verbo uscì. Come? E perché si era accorto di quell'altra peonia? Si ricordò di lei bambina, con una faccina gialla che sembrava dover sempre rimanere infantile. Certo, in quanto al mangiare non ci costa niente, diceva sempre la madre di Aiwan. Nessuno ora avrebbe potuto affermare che Peonia aveva la faccia gialla. Non sarebbe mai stata alta di statura, ma di carnagione non era certo gialla. Aiwan attraversò il grande atrio quadrato, sostò davanti a una pesante porta di noce di rimpetto alla sua e tossì. Avanti! Disse suo nonno dall'interno. Entrò. Aiwan disprezzava la nonna, ma non così il nonno. Il nonno sapeva molte cose, quantunque essendo vecchio molto dimenticasse, ma non ammetteva che altri ne sapesse più di lui. Aiwan non poteva non notare l'assurdità di quella vanità di un vecchio, ma non per questo gli era mai riuscito di vincere una certa soggezione in sua presenza. Se qualcuno diceva che gli stranieri facevano in un modo piuttosto che in un altro, ecco che il nonno era sempre in grado di confermare o di smentire. E se qualcuno lo sollecitava a parlare dei paesi stranieri, diceva sempre: «Ho visitato i paesi dell'Occidente e ciascuno è diverso dagli altri, e tutti sono diversi da noi, questo è quello che conta». Se invitato, non era alieno da raccontare le strane cose che aveva vedute. Certo, 50 anni addietro quelle tali cose sembravano più nuove e strane di quel che non sembrassero ora. Un treno, ad esempio, 50 anni fa era somigliantissimo a un drago. A chi lo ascoltava, il nonno diceva: immaginate un drago che ruggisca correndo per la campagna emettendo fumo dalle nari. Ora, naturalmente, i treni si erano moltiplicati e tutti a Shanghai ne avevano veduti, con la conseguenza che il vecchio non poteva più dissertare su di essi, ma non per questo. La sua dignità ci perdeva. Siedi, disse ad Aiwan. Cosa hai studiato oggi? Aiwan sedette sull'orlo di una sedia e cominciò. Signore, oggi ho studiato storia, geografia, inglese e matematica. Nessuna materia militare? Domandò il nonno con asprezza. Oh, quelle sono per domani, signore, rispose Aiwan. E materie militari? La scienza militare, questo è quel che ci vuole, sentenziò il nonno. Quando ero in Germania vidi parecchie riviste di truppe ed ebbi così modo di formarmi certi miei chiari concetti. Ecco perché la scorsa estate ho assunto per te un istitutore tedesco. Aiwan sedeva fissando il nonno senza ascoltarlo né vederlo, cosa a cui si era da lunga pezza allenato. La Germania di 50 anni prima, quale elemento di interesse poteva mai avere per lui? Sedeva a mente vuota, seguendo con gli occhi la sottile mano gialla con la quale il nonno si carezzava la barba bianca e scomposta. Se, pensava, quella sera si fosse deciso a confessare a Peonia di essere rivoluzionario, ecco, glielo avrebbe detto quando lei fosse venuta sua a preparargli il letto. Ma poi pensò che, se avesse fatto quella confessione, tanto valeva rinunciare a tutto, tanto valeva decidersi a non farsi più vedere in casa, e naturalmente anche Peonia non lo avrebbe più riveduto. E allora avrebbe pianto. No, no, non avrebbe detto nulla a nessuno. Piuttosto non sarebbe più tornato a casa, semplicemente, in silenzio, il giorno in cui fosse scoppiata la rivoluzione. Nella riunione segreta di quel giorno, Liu Enlan aveva detto: la prossima primavera. Puoi andare, disse benevolmente il nonno. Stai attento a scuola. Ho grandi progetti per te, Aiwan. Aiwan si alzò, si inchinò e si volse. Quando fu sull'uscio, tornò a voltarsi e ripeté l'inchino. Di rado, quando era nella stanza del nonno, egli apriva bocca, tranne che per rispondere a qualche domanda. E uscire gli dava sempre soddisfazione. La stanza era piena di vecchi libri e di troppi mobili. C'era un tanfo là dentro d'aria chiusa, di vecchio. Il nonno non apriva volentieri le finestre. Di giorno sosteneva che faceva più fresco tenerle chiuse e di notte gli faceva paura l'umidità. Aiwan chiuse la porta dietro di sé. Questa casa, pensò, è piena di odori. Persino Peonia odorava di gelsomino. Era un profumo troppo dolce, glielo aveva detto, ma a lei quel profumo piaceva e non aveva voluto saperne di abbandonarlo. Sei tu che non sei normale, insisteva sempre. Il tuo naso è troppo sensibile agli odori. Quel che piace agli altri e a te dispiace, si direbbe che tu lo faccia di proposito. Questo e altro, ella diceva con la sua voce soave. Le parole erano dure, ma erano dette con tanta dolcezza. Ora, Aiwan doveva presentarsi ai genitori, dopodiché per quella giornata sarebbe stato in libertà. Batté a un'altra porta ed entrò, senza aspettare. Di là si aprivano due enormi sale che egli conosceva meglio di qualunque altro locale della casa, perché da bambino aveva incominciato a camminare sul bigio pavimento di legno coperto di pesanti stuoie cinesi. Gli era noto ogni particolare decorativo, dai vasi agli elefanti alle palle d'avorio, con cui gli era permesso giocare quanto voleva. Ancora adesso gli piaceva prendere in mano la grossa sfera d'avorio che ne conteneva altre 17, tutte traforate come la prima, e tentare di individuare con l'occhio, attraverso gli interstizi dei trafori, i 17 pezzi, ciascuno autonomo e internamente rotante. I suoi genitori erano entrambi seduti, la madre presso la finestra in atto di ricamare, e il padre davanti a un'enorme scrivania di ebano a un'estremità della camera. Indossava ancora il costume straniero che gli era servito in banca ed alzò gli occhi mentre Aiwan entrava. Hai già fatto visita ai nonni? Disse. Io sono appena rientrato, ora devo cambiarmi. Ma non si mosse. Tuo fratello è rientrato? Domandò. No, babbo, rispose Aiwan. La signora Wu alzò dalla sua stoffa di raso il soave volto dubitoso e allungò una mano verso il figlio. Avvicinati, disse in inglese. Parlava bene quella lingua e ne era orgogliosa. Hai l'aria stanca, Aiwan. Sono stanco, infatti, rispose lui in inglese. Gli piaceva parlare inglese, così gli era almeno consentito di non adoperare le lunghe frasi fiorite di prammatica nel cinese. Parlando inglese non era evidentemente possibile dire il vostro onorevole oppure io l'umilissimo. Tuttavia, qualche volta sua madre poteva essere cinesissima. Certe sue superstizioni, per esempio, non quadravano per nulla col suo puro accento inglese. Non aveva forse Aiwan passato l'intera puerizia armato di un lucchettino e di una catena d'argento per tenere sotto lucchetto la sua vita? Spesso tirava la catena che gli pendeva dal collo, ma non gli era mai riuscito di romperla, l'argentiere avendo avuto cura di saldargliela con particolare diligenza. Sei molto in ritardo, gli disse ora la madre. Ah, c'è stata una riunione dopo la scuola, spiegò Aiwan. Che riunione? Domandò il padre in cinese. Una riunione politica, rispose Aiwan ancora in inglese. Non ti lasciare invischiare, gli raccomandò il padre. Ora anche egli parlava inglese, come faceva sempre quando voleva essere sicuro che nessun servo lo capisse. Parlava inglese correntemente, ma con pessimo accento, confondendo la R, le N, le S, come del resto gli capitava, anche quando parlava tedesco o francese. Gli studenti, dei ragazzi, non possono far nulla contro coloro che sono al governo, i quali, viceversa, possono benissimo farvi tagliare la testa. Aiwan, esclamò la madre, promettimi. Il padre continuò senza badarle. Il governo non presterà mica orecchio alle sciocchezze dei ragazzi e delle ragazze, disse con calore, senza contare che nessuno di voi ha un'idea di che cosa significhi governare un paese. Siete voi degli ipercritici e dei ribelli, ma che cosa ne capite del denaro, della banca o magari, dico per dire, di prestiti stranieri? Che bisogno abbiamo noi di prestiti stranieri? Scattò Iwan. Proprio quel giorno, alla riunione di cui aveva parlato, si era trattato di prestiti stranieri e Denlan si era alzato per offrire con gran semplicità la sua vita alla causa in segno di protesta. Fino a quel momento i convenuti Non si erano resi ben conto del periodo del nuovo prestito giapponese di $1 milione, per il quale la garanzia sarebbe stata una certa importante miniera di ferro nel nord. L'ultimo prestito contratto all'estero, aveva detto Inlan, è stato oneroso, così come tutti gli altri del resto. Al paese che sborsa il denaro per noi, noi concediamo importanti privilegi. Gli studenti hanno protestato presso il governo, ma nessuno ha loro badato. Con vostro permesso, io mi nasconderò una rivoltella nella manica e la scaricherò sul ministro delle finanze mentre tornerà a casa per il pranzo con la sua nuova concubina. Nessuno aveva parlato. Tutti guardavano Enlan. Egli aveva mostrato i denti con un ringhio e aveva aggiunto con voce sibilante: «La sua nuova concubina gli costa $10.000! Solo i ministri delle finanze possono continuare a permettersi simili lussi!» Era la prima volta che uno del loro gruppo offriva la vita per uccidere un nemico. Altri lo avevano fatto a varie riprese, tanto che le personalità più in vista avevano creduto bene di raddoppiare le loro guardie del corpo, specie dopo la volta che uno studente era riuscito a penetrare nello studio del ministro degli esteri, allorché il Giappone aveva avanzato le famose 21 domande. Nella riunione di quel pomeriggio era seguita una discussione agitata, in capo alla quale era stato tuttavia deciso di vietare a Enlan l'offerto sacrificio. Troppe cose dovevano ancora accadere. «Perché abbiamo bisogno di prestiti stranieri?» ripeté il padre di Ewan. «È perché qualunque paese in fase costruttiva ha bisogno di prestiti!» Il padre di Aiwan era un omone con una bella faccia dalle guance piatte. Si piccava di essere moderno e di contare numerose amicizie straniere, soprattutto giapponesi. Il signor Wu, insomma, era uno di quei cinesi che credevano fermamente nell'amicizia del Giappone. L'Asia agli asiatici, soleva ripetere, plagiando il ministro degli esteri giapponese che per primo aveva adoperato quella formula in un discorso pronunciato davanti alla Società delle Nazioni. «Tu ora non puoi capire», disse benevolmente a suo figlio, «perché sei in un'età, come dire, idealistica. Anch'io a 20 anni avevo certi ideali. Ero un segreto seguace del giovane imperatore e delle sue riforme, e come me erano quasi tutti i giovani di allora. Scommetto che anche voi, giovani d'oggi, coltivate un ideale analogo. Aiko non è mai stato fra questi giovani», mormorò la signora Wu. «Aiwan somiglia di più a me», disse vivamente il signor Wu. Aiwan sedeva silenzioso. Da lunga pezza aveva fatto proprio quell'espediente. Era un modo di essere filialmente rispettoso e anche di non dir nulla. Sua madre aveva ripreso il ricamo e suo padre la penna. A lui, ad Aiwan, non importava nulla di quanto diceva il genitore, e ciò nonostante, pensava, suo padre sapeva così facilmente ferir qualche cosa in lui, con poche parole, dandogli il senso della sua piccolezza e della sua gioventù inesperta, come se i rivoluzionari di oggi fossero stati paragonabili a quelli che sotto il debole imperatore avevano perseguito chissà quali fini. Ora, suo padre era un uomo indaffarato e ricco, benché ai suoi tempi fosse stato il cocco della famiglia, così come Aiko, fin tanto che era stato lui l'unico figlio. I vecchi servi di casa la sapevano lunga sulle avventure infantili dell'attuale banchiere, ma i 1.000 vizietti non lo avevano guastato. Ora, Aiwan sapeva che i suoi genitori si bisticciavano spesso con accanimento, ma ignorava a proposito di che. Sua madre era l'unica figlia di un ricco e certo aveva ricevuto un'istruzione affatto eccezionale per le ragazze del suo tempo, il che non le impediva di obbedire all'autoritario marito anche bisticciando. Tutti gli obbedivano, persino i suoi genitori, i nonni di Aiwan, per quanto egli ostentasse di inchinarsi ai loro voleri, visto che conveniva. «Posso andare, babbo?» domandò Aiwan. Fra un poco fu la risposta. Aiwan rimase seduto al suo posto, ma il sangue gli bolliva. «Mio padre», pensò, «non ha nulla da dirmi, e tuttavia mi fa aspettare per mostrare il suo potere su di me. Non una volta che mi permetta di andarmene subito. Evidentemente ci tiene a far sentire che è lui il padrone.» Arricciò un poco le labbra, pensando che il giorno che avesse detto addio a tutti. «Hai dei progetti?» gli domandò a bruciapelo in cinese suo padre. Aiwan alzò gli occhi. Suo padre depose la penna. «Da un pezzo vado pensando Che ora che tu ti preoccupi del tuo avvenire, disse. Anche tua madre ha dei progetti sul tuo conto. Hai 20 anni, interloquì la madre. Ormai sei un uomo. Aiwan sentì le guance faglisi di fuoco e il padre proseguì benevolmente studiandolo. Stai tranquillo, non faremo nessuna violenza né a te né a tuo fratello. Non ti abbiamo fidanzato e non pensiamo di farlo. Ne parlammo molto tempo fa. E la decisione fu di lasciar liberi te e Aiko di scegliervi le vostre mogli. Oh, grazie, signore, mormorò Aiwan. Naturalmente non ignorava la cosa. Aiko veniva qualche volta a trovarlo dopo cena nella sua camera e gli faceva grandi discorsi intorno a ragazze che conosceva e che avrebbe potuto sposare se così gli talentava. La decisione, tuttavia, era ostica. Qualche volta finiva col prendere in giro se stesso. Non esistono ancora leggi contro la poligamia, diceva, ma le donne diventano così indipendenti da esigere da te la promessa che non sposerai altre che loro. Come può un uomo promettere una cosa simile? Aiwan, che pur aveva pensato alla propria libertà come a cosa ovvia, fu nondimeno grato ora ai suoi genitori. Numerosi suoi compagni di scuola erano già fidanzati perché costrettivi dai genitori. Che era una delle tante piaghe da combattere. Le ragazze soprattutto deploravano vivacissimamente. Alle riunioni politiche non si stancavano di ripetere: dobbiamo avere il diritto di sposare chi ci piace e magari di non sposarci affatto se così ci garba. Tutti erano stati d'accordo. Qualche volta nei gruppetti isolati di giovanotti il discorso era caduto sulla ferma decisione delle ragazze, e ancora tutti erano stati d'accordo nel dichiarare che esse avevano ragione, però non potevano esimersi dal domandarsi che cosa sarebbe successo se le donne cominciavano a rifiutare il matrimonio. Era imbarazzante pensare di farsi avanti con una proposta di matrimonio e sentirsela respingere. Una volta Enlan si era rivolto ad Aiwan con un sorriso ironico. Calmati, gli aveva detto. Ricordi la ragazza che parlò più forte di tutte in favore della libertà? Aiwan se la ricordava. Era una graziosa e ridente meridionale del Fiuquén. Enlan si mise una mano in tasca, ne trasse una lettera e la porse ad Aiwan. Era una calda lettera d'amore, firmata dalla ragazza con nome e cognome. Aiwan ne fu stupefatto e anche un tantino invidioso. La sposerai? Aveva domandato. Enlan aveva scosso il capo. Perché dovrei sposarmi quando da rivoluzionario qual sono posso morire da un giorno all'altro? D'altronde essa non chiede il matrimonio. Era vero. La ragazza aveva scritto: dimmi soltanto di venire da te e io verrò. Noi siamo liberi. Aiwan restituì la lettera ed Enlan se la cacciò in tasca. I miei genitori, disse, hanno in serbo una moglie per me a casa. Ecco perché non ci vado mai. Una moglie, esclamò Aiwan. Trovava sempre qualche cosa di nuovo in quell'Enlan che aveva aiutato a evadere dal carcere. Ma, continuò adesso il padre, è ora di decidere sulla tua vocazione. Naturalmente conto di prenderti con me nella banca, così come ho fatto con tuo fratello maggiore. Aiwan non rispose. No, non sarebbe mai entrato nella banca. I suoi compagni, sapendolo invischiato nelle trattative per i prestiti stranieri, lo avrebbero odiato e lui, Aiwan, non poteva sopportare una simile idea. Non ignorava che il nome del padre figurava nel libro nero dei rivoluzionari, insieme con quello di altre personalità cospicue. Per un momento pensò con appassionata invidia al suo compagno Enlan, il quale era figlio di un contadino e ne era fiero. Mio padre, soleva dire Enlan, è un uomo qualunque. E mia madre non sa né leggere né scrivere. Enlan era spietato con tutti i ricchi. Egli non avrebbe mai capito come e perché Aiwan, che pure odiava anche lui i capitalisti, potesse ancora amare in segreto il padre ad onta di tutte le sue ribellioni. Enlan soleva ripetere con la sua tranquilla sicurezza: se si trattasse di me, poiché egli è un capitalista e un nemico, lo rinnegherei come padre. Non intendo né premere su di te né forzarti, gli diceva ora benevolmente il genitore. Tu sei mio figlio, ma quando sarai sicuro del fatto tuo, parlamene. Fece un cenno col capo e Aiwan si alzò. Come gli era spesso accaduto prima, la sua irritazione era scomparsa. La esibizione di autorità di suo padre si era conclusa in una parola amabile. «Grazie, padre», mormorò. «Dove vai?» gli domandò la madre. «In camera, a studiare». Anche ella provò col capo, lieta di sapere che il figlio sarebbe rimasto in casa. Aiwan uscì e richiuse la porta dietro di sé. Più tardi si sarebbero incontrati al pian terreno attorno alla grande tavola per un pranzo che per Ellan sarebbe stato un banchetto, mentre per loro era il pasto di tutti i giorni. Aiwan, pensandoci, sentì gli stimoli dell'appetito. Fra sé si disse che conveniva dare un'occhiata al contenuto della scatola che Peonia gli teneva sempre ben fornita sul tavolo e accertarsi se la teiera era bollente nella custodia di panno. Affrettò il passo verso la sua camera, preso da una strana euforia. Quell'ora che aveva tutta per sé prima del pranzo gli piaceva, parlava di studiare, ma in realtà in quell'ora non studiava mai. Solo dopo cena, quando non andava a teatro, si dedicava allo studio. Ma quella sera doveva studiare a tutti i costi. Lo preoccupava certo lungo componimento inglese che avrebbe voluto far bene, magari meglio di Enlan, che da tempo segretamente desiderava di poter battere. Ma era un pio desiderio. Perché Lan era bravissimo nello scrivere. Mai Aiwan riusciva a riscuotere dall'attempata maestra d'inglese le lodi che riscuoteva il compagno. Comunque, pensò, quella sera si sarebbe sforzato di fare del suo meglio. Quasi più che alla lode dell'insegnante, teneva che Lan avesse una buona opinione di lui. Perciò non se ne stette in ozio, sedette a tavolino e aperse il quaderno d'inglese. Avrebbe cominciato subito. Ci avrebbe messo ancor più impegno del solito.